Questo programma è in collaborazione con staymusic.com. Del lupo. E torniamo in onda dopo una breve pausa, dai, abbiamo fatto una settimana di pausa solo per le vacanze, poca roba. E torniamo in onda con Wolf Trips, io sono Domenico Biancardi alla regia e poi abbiamo ai microfoni Tony e la Cri, che li vedo un po' sempre angosciati, cosa sta succedendo non si sa. E iniziamo subito questa puntata del 2019, finalmente la prima puntata del 2019. Abbiamo anche Fabio, scusami, mi sono dimenticato di nominarlo. Questa puntata iniziamo belli tranquilli, senza troppe pretese. Partiamo subito con un brano di King Shy, il brano si chiama Circle, come si chiamerà? Circle, sì dai, Circle. Ci sta. Circle. Thank you. era male neanche questo come brano, no? La musichetta della base, tutto sommato non no, era male. No, ci stava bene, dai. E stavo ultimando le ultime cose ed ero un attimo, mi sono perso. Un attimo distratto. Vabbè, dai. Non si fanno queste cose. Vabbè. Siamo vicini qua. Vedi di non farlo più. No, cercherò di non farlo più. Allora, avete passato bene le vacanze? Sì. Te hai finito i tuoi viaggi sulle navi? Per ora sì. Perfetto. È affondata la nave. No. Dopo l'ultimo viaggio della Speranza siamo tornati incolumi. Perfetto. Facciamo così, continuiamo con un po' di musica, così forse riusciamo veramente a tornare al 100% operativi. Allora, vediamo se non mi impappino. Allora, il brano è di A Bit Advanced Music, Bad Dream. No, ci sta, dai. Mi sembra che l'abbia detto in modo corretto. Sì. Torniamo nello studio che ormai è stato bello che rinnovato, ripulito, studio bello, bello nuovo. Abbiamo tornato anche l'effetto Nair che era tanto caro alle dirette radio. Sì, ecco. Col pennarello. Col pennarello, sì, però... artigianale. Dimmi tutto. Però c'è una... Sì, giusto. Una correzione è vero. Il brano che abbiamo ascoltato, un pezzo del brano che abbiamo ascoltato è Icaro con Stepping Stoned. Stoned. E finalmente sono riuscito anche a recuperare i miei appunti, perché senza gli appunti ero perso, ed è dell'etichetta Badgers Records, che fa tutte queste cose un po'... sembrano mistiche. Se vedi un po' la copertina, vedi. Infatti ha fatto questa compilation di 14 brani. Chilam Impact Part, che c'è questo tipo santone indiano, non so come definirlo. Sembra una goa. Sembra sì, sembra molto bravo. Lamentata. Bravo, bravo. Psytrance? No, beh, ma questo no, è più sul chill out. La copertina è vero, richiamerà qualcosa di Psytrance, che in realtà ho selezionato un brano, non so se riusciremo a passarlo perché è molto in avanti nella playlist. Quindi noi partiamo sempre da musica tranquilli, sì, poi sì, dopo alziamo un po' il... Ah, ecco, vedi che è vero, hai ragione. Sono Dark Twisted. Allora, Badger Records è un'etichetta della Grecia ed è dedicata a promuovere dark psychedelic music. Trance. Dov'è Trance? Sotto il nome. Sotto il nome dell'etichetta. Vediamo come si cioè, dice. Cioè, Dark Twisted Psychedelic Trance. Ah, eccolo lì, sì, adesso l'ho visto. Va bene, va bene. Psychedelic la parola. No, cos'è che dici? No, non si sente, è inutile che sentiamo nulla, il nulla. Non si sente niente però. È andato. Aspetta. No, non va, mi stai facendo Stone. Stone. Vabbè, dopo questa perla di saggezza. Passiamo al prossimo brano, che è dell'etichetta Control, che forse avevi trovato qualcosa anche tu, ho visto, male. No. E lui veramente, invece veramente adesso andiamo a ascoltare il brano di Ed Bead, Advanced Music, con Gatekeeper. E ci spostiamo quindi dal dark psichedelico al trip hop, quindi non è che ci spostiamo tantissimo in realtà. Non vi dico nulla sulle note perché ho delle note ma sono scritte... traducile. Cioè Google Translate. Traducile. Adesso faccio un Google Translate quasi. Va. I'll wake up to find my way, but a mad resistance standing in front of me. It appears it's not so easily wake from this bad dream. I've almost forgotten my name. Avevo fatto la traduzione dal russo, ma... Che tra l'altro è uscita perfetta. Sì, ma l'ho cancellata, l'ho tirata via, quindi non scopriremo mai che cavolo voleva dire la canzone, però non era male. A libera interpretazione, Bad Dream. Siamo infatti... già arrivati alla fine perché... Sì, infatti, strana questa cosa. Sei un po' troppo in anticipo. Ho sbagliato gli orari dei treni. Va bene. Continuiamo col prossimo brano di Efedrina Records, che è di un ragazzo che avevo sentito tempo fa, che volevamo intervistarlo, poi ha avuto un po' di varie blocchi suoi personali, poi in realtà ho visto che adesso sta riprendendo un po' a produrre con la sua etichetta e infatti gli ho detto allora sarebbe anche ora di farti sentire con noi, no? Sentiamo un po' di musica, un po' di tuoi progetti. Andiamo a ascoltare questo brano che è... mi sono perso. Vigo plus Ecto Vibe con il brano Try. Andiamo a vedere un po' che cosa propone. Va bene, dai, questa qua è un ritmo un po' strano, saltellante direi, no? Sì, skippante. Ma tu hai preparato qualcosa con i tuoi mega jingle o sei qua solo a cazzeggiare? È già tutto pronto. Ah, ok, perfetto. No, perché sennò, cioè, che ti pago a fare? Sei venuto qua, fa che? Me lo spieghi? È efficiente con la di davanti. Posso chiedere se ci fai qualche jingle anche noi? Sì, no, ma questi sono i jingle, il jingle palette, quindi lui lancia dei jingle a caso ogni tanto, entrano a caso e vanno, dimmi. Lui è efficiente con la di davanti. No, poverino, no, non è vero, lui è... Ha fatto la battuta! Tipo questo, che però tu non puoi sentire perché se non hai le cuffie, vabbè, lo sentirai dopo. Continuiamo con un po' di musica, così continuiamo a parlare con il nostro ospite qua in studio, perché stavamo facendo dei discorsi molto interessanti. E il prossimo brano è della nostra amatissima etichetta Block Sonic e il brano è di Pot C. Io direi a Tony di provare a pronunciare questa qua. Non lo traduciamo, facciamo che non lo traduciamo, che forse è meglio. Dai, maiali merda, su. Vabbè, ora. Adesso vediamo un po' che cos'è. Vai. Grande. Using a crutch from now till death, pound your deaf gals of breath. Need the breath to bitch in my glitch and wig claws, nap bras with my canines. Playtime is started. Bazilla coming iller than piss and vanilla flavor ice cream. Might seem disgusting to most folks. On toes, croak, frogs, and crickets. Can I kick it? Lick a line of blow out dynamo hose and bow bows. I suppose it's my hobby. Getting real life Bobby. Devour MCs with ease that come shoddy or shabby like drapes at the Ivanhoe. Saying I don't know, but she's not the hiding hoes. Eating flies and toads and reside by roads like insects. I eat fed on my back stairs. Just there, never spare. Like Coco, beware. Okay. conflicts for what it is for most, no matter your busy coast. If there's no truth or soul, then there's no relevant goal. Offbeat or flow control, even if your beats are stole. Voice groggy or high pitch, the verbal stitch must insert without covert agendas. Getting me wrong like pretenders, senders must be choosy. One-time floozies or mass market money makers, exposing you and your crew into some funny ass fakers. Lights, camera, a samurai sword to the wrist, cutting brain circulation, mentals in the mist. For some had the time and some are timeless, for lots of time's up, you got to take time to find this. But yo, I'm in jelly, cause I'm on the land like blindness. Potty, could you fill them in? Del lupo.

Lee. Wolf Trips, un viaggio alla ricerca della musica del futuro. alla ricerca, delle hits del futuro. Viaggi del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground, solo su Radio Lupo Solitario. Thank you. Thank you. preparatevi per due ore di musica underground. Big in a jungle. When we tell everybody, what you know, man? Me at the nutter. booyaka, booyaka, when the general a pass. Booyaka, booyaka, MB run the dance. Booyaka, booyaka, when I take part of that. Booyaka, booyaka. Incredible. Mr. Lee, keep on the man, the gentleman, pretty general. Keep on my in my side. Wicked, original. Minimum of rap, minimum of skin. Minimum of rap, partial. Minimum of rap, fist and up. DJ to the funeral. General Lee, minimum of back. Red, all women come and dance on me. All put a man down that to the pinnacle. If you like a DJ, chat, get this, it's a go. Just be a tell, come and get them. Critical, critical, critical, come go. You might see a pack of killers coming at you looking high. Bad snipes, jacket scissors running at you, ducking dive. That's life, how I'm feeling when I'm fucking clocking rhymes. Bang, rhymes, cooking, leaving, why my dick and cut the tie. Gang signs, must have nicked mistaken for some other guy. guy. I'm fine, see you motherfuckers. Shoot 'em up, quick fire, reload, line 'em up. Two gun fingers in the air, push your lighters up. Black sun virus came through to rile 'em up. Two gun fingers in the air, push your lighters up. Shoot 'em up, quick fire, reload, line 'em up. Two gun fingers in the air, push your lighters up. Data mind virus came through to rile 'em up. Two gun fingers in the air. Let it roll. Can leave and wipe my dick and cut the tie. Gang signs, most of them mistaken for some other guy. I'm fine. Okay. Okay. in place unknown. Between the lines, space to roam, a new desire, and found the time, undiscovered, undermined, a secret key. Wolfrix, i viaggi del lupo. alla ricerca della musica del futuro. musica delle hits del futuro. We'll be right back. Wall Streets, i viaggi del lupo. Questo programma è in collaborazione con stymusic.com.